Salva Danaio. Le 12 e 17 minuti, ben trovati da Roberta Pellegatta, Salva Danaio. Lunedì 4 giugno 2012, in Emilia la terra continua a tremare. Avete sentito gli aggiornamenti dei nostri GR a 5 giorni dalla seconda forte scossa, quella del 29 maggio. Ieri sera ancora paura e ancora crolli, senza per fortuna questa volta feriti. Quest'ultima scossa di magnitudo 5.1 non ha gravato già pesantissimo bilancio, fatto di 24 vittime, 350 feriti, 16.000 persone assistite. Poco fa il nostro minuto di silenzio durante il GR, perché si celebra oggi, come avete sentito, la giornata di lutto nazionale, c'è cordoglio ma anche voglia di ripartire, e oggi Salva Danaio dedica la puntata alle iniziative di sostegno e di soccorso a chi il terremoto l'ha subito e continua a sopportarlo. C'è bisogno di solidarietà, di aiuti in denaro, in beni, c'è bisogno di volontari, e allora come fare a riuscire a far arrivare all'Emilia il nostro contributo attraverso iniziative serie ed affidabili? Cercheremo di capirlo con tanti ospiti, cerchiamo di capire quali sono i modi per aiutare le zone terremotate, ma anche di che cosa i cittadini colpiti dal sisma hanno in questo momento più bisogno. 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta, per i messaggi 349 238 6666. Avremo con noi i presidenti della Coldiretti Emilia Romagna, del Consorzio Tutela Grana Padano, della Coop Italia. Avremo anche il presidente dell'Associazione Servizi Volontariato di Modena, che cerca persone, perché appunto non solo di denaro c'è bisogno, ma anche di braccia, di cervelli, ingegneri, geometri, personale sanitario, come avremo modo di spiegare. Anzi, vi do già un sito che potete segnarvi, che è www.volontariamo.com. Ma cominciamo, in fondo siamo a Salva Danaio parlando di soldi, perché è il modo più facile per collaborare, per chi non può offrirsi come volontario, non può donare dei beni, è offrire denaro. Anche una piccola cifra importanza, anche una somma che può sembrare modesta, conta. Se a donarla siamo in tanti. Diverse banche e non solo hanno organizzato raccolte fondi, e noi siamo in collegamento con due istituti di credito che operano sul territorio, Emil Banca e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Quindi io saluto Giuliana Braido, che è la responsabile area identità aziendale di Emil Banca, ben trovata. Buongiorno. E c'è Pierpio Cerfogli, direttore commerciale del gruppo BPR, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Giuliana Braido, lei vive in tenda? No, non vivo propriamente in tenda, ma dormo in tenda per una questione di sicurezza più emotiva che, devo dire, fisica, perché comunque fortunatamente la mia abitazione ha retto molto bene. Io vivo ai margini della zona rossa e comunque per una mia sicurezza emotiva sì, dormo in tenda, lo confesso. No, certo, perché le scosse non cessano, la paura continua. Purtroppo, e quindi sì. È un vero e proprio stilicidio. Sì, è proprio questo che colpisce emotivamente in modo molto pesante, credo, e quindi il pensiero va a tutte le persone che dormono in tenda già da un pezzo e non solo, vivono in tenda. Certo, perché insomma anche se non si hanno subito dei danni si ha paura, è questo si il problema. Si ha molta paura e tutto è veramente precario. E allora cerchiamo di spiegare a chi ci ascolta come fare ad aiutare le persone che dormono, che vivono in tenda, le persone che hanno subito dei danni, e speriamo che non ne subiscano più. Emil Banca, come poi appunto anche il gruppo BPR, ha già attivato una raccolta fondi, vero? Sì, noi subito dopo il primo sisma, il lunedì proprio successivo, abbiamo aperto un conto per le donazioni da parte di soci e di clienti. Ad oggi abbiamo già raccolto una buona cifra, ci siamo mobilitati anche come dipendenti, come amministratori, donando il corrispettivo di ore di lavoro piuttosto che di gettoni di presenza, e devo dire che la solidarietà si fa sentire, questo è molto bello, e siamo riusciti a veramente a racimolare una buona cifra. Dipendenti, 167 di noi hanno donato veramente diverse ore, chi anche più giorni di lavoro, abbiamo totalizzato più di 500 ore che l'azienda poi si è impegnata in termini di corrispettivo a duplicare. E quindi da grande solidarietà da parte dei lavoratori, sì, dipendenti, donano, sì, ore, donano giorni. Esatto. E si possono donare appunto anche fondi. La vostra raccolta è Emergenza Terremoto in Emilia. Emergenza Terremoto Emilia, versando in ogni filiale di Emilbanco, anche tramite bonifica home banking, su un conto che è indicato nel nostro sito. E È evidente che in questo momento per le persone che non hanno la possibilità di donare anche ore, come abbiamo sentito, appunto c'è bisogno di mani e di cervelli, però comunque il denaro farà la sua parte. Insomma, noi insieme comunque a tutto il credito cooperativo italiano ci siamo mobilitati. Ricordo che per esempio per il terremoto dell'Aquila insieme il credito cooperativo è riuscito a ricostruire la casa comunale raccogliendo oltre 5 milioni di euro. Immagino che anche in questo caso ci sia una buona partecipazione e quindi si possa fare qualcosa di veramente utile e grande, speriamo. Pierpio Cerifogli, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, anche voi avete attivato una raccolta fondi. Sì, abbiamo attivato anche noi prontamente la raccolta fondi, c'è un conto corrente presso la sede di Modena intestata alla Caritas Modenese che sta raccogliendo versamenti un po' da tutta Italia. Essendo il nostro gruppo un gruppo presente su tutto il territorio italiano, devo dire che stiamo veramente raccogliendo molti fondi. Senza commissioni? Assolutamente senza commissioni da subito. Noi abbiamo fatto esperienza, ahimè purtroppo, tramite la Cassa di risparmio dell'Aquila di questa situazione già in precedenza, e quindi abbiamo azzerato immediatamente il tema delle commissioni. Perché sappiamo appunto l'uscita della notizia della richiesta di queste commissioni che ha suscitato sdegno, perché insomma è evidente che ci sono delle situazioni attraverso le quali proprio non si può fare cassa. E quindi sì. Devo dire, questo capisco che in un frangente come questo sia tecnicamente poco rilevante, purtroppo nella fretta molti sono partiti a comunicare il numero di conti, anche enti e associazioni, senza comunicarlo in qualche caso alle stesse banche, che non hanno avuto la possibilità tempestivamente di togliere proprio tecnicamente l'addebito delle commissioni, lo hanno poi fatto penso in tempi abbastanza rapidi. Ah, quindi è stato forse un problema tecnico? Sì, le assicuro che è un problema tecnico, perché nessuno, penso ragionevole, in qualunque istituto bancario può pensare di prendere commissioni su una operazione del genere. Voglio dire, sarebbe assolutamente vergognoso. Potete già dire quanto avete raccolto attraverso questa iniziativa? E quattro puntate di raccogliere? Ma allora, intanto i versamenti sono così, voglio dire, costanti, frequenti ed estremamente numerosi, quindi siamo già nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro e pensiamo nel tempo di così raggiungere cifre veramente ragguardevoli. Fra l'altro domani il nostro consiglio di amministrazione si riunisce e penso che darà a sua volta un contributo importante a questo conto. Giuliana Braido, avete già deciso come poi utilizzare questi soldi? Ma questo ancora non lo abbiamo deciso, e dipenderà molto anche dall'entità della raccolta. Evidentemente noi abbiamo già sul conto raccolto più di 25.000 euro come diciamo raccolta esterna, in più si aggiungeranno le nostre ore che appunto come dicevo duplicate dalla banca probabilmente corrisponderanno a una ragguardevole somma, dipenderà molto appunto dall'intervento. Pensiamo di comunque lavorare sulla ricostruzione di scuole, perché adesso in queste aree sta diventando veramente una grande emergenza, cioè hanno chiuso le scuole per inagibilità e quindi di fatto poi a settembre l'anno dovrà ripartire, non ci si può fermare, e quindi un'idea è questa. Cercheremo di ragionare proprio siccome noi siamo sul territorio, cercheremo un po' di vagliare anche e di capire quali sono e saranno le priorità. Esatto, quali sono le priorità. Bisogna agire per priorità in questo momento. Certo. Non ci si può certamente fermare, quindi probabilmente una delle principali azioni sarà quella anche di lavorare proprio sugli edifici scolastici. Questa è un'idea, ma lo stiamo valutando. Purtroppo anche questo fatto che le scosse continuano rende tolgono tutto proprio più anche difficile. La possibilità di fare delle grosse progettazioni, purtroppo. Sì. Naturalmente. Pierpio Cerifogli, quali sono le altre iniziative della banca a favore del territorio? Beh, guardi, allora, le iniziative sono così, le possiamo dividere in modo così piuttosto succinto. Ecco, velocemente, perché non abbiamo molto tempo, sì. In alcune fasce. Allora, le prime iniziative sono proprio di sostegno basico alle esigenze dei cittadini, e quindi noi abbiamo già attivato camper, container e anche bancomat mobili nelle zone colpite, quindi il cittadino che ha bisogno di contante è nella possibilità, o tramite questi accorgimenti e queste iniziative, o tramite delle filiali di appoggio in una metratura piuttosto ristretta. Ecco, insieme a questo poi invece c'è così l'iniziativa di grande respiro, che è il plafond da 200 milioni di euro al tasso dell'1,50 che abbiamo messo a disposizione per le iniziative proprio estemporanee, le prime necessarie proprio per provare a ripartire. Da questo poi poi discenderanno altre e ulteriori iniziative. Ecco, ne approfitto per dire che ci troviamo in una situazione in cui il problema è quello di governare tantissime idee, tantissime voglie di fare, e in qualche caso è proprio necessario razionalizzare, fermarsi un attimo, provare a mettere in fila in ordine le iniziative, perché vi assicuro e assicuro gli ascoltatori che la voglia di fare è veramente tantissima. Occorre anche però coordinazione e organizzazione, quindi rallentare per non fare troppa confusione in momenti come questo. Esattamente, in qualche frangente sì, bisogna consolidare un passaggio precedente, poi immediatamente fare partire qualcos'altro. Va bene, so che anche Mibanca ha già messo in campo finanziamenti e condizioni agevolate e vantaggiose. Le condizioni sono le stesse, sono esattamente quelle citate dal collega prima. Anche noi abbiamo messo in campo 200 milioni di euro circa, non soltanto noi come banca, ma anche con le altre banche che sono in questo modo interessate sul territorio, e la nostra federazione nazionale, quindi il plafond è uguale, e crediamo che comunque queste risorse possono effettivamente, noi stiamo già cominciando a concedere sospensioni per il pagamento delle rate dei mutui, che fa parte di queste delle misure di emergenza, per chiaramente gli immobili piuttosto che le case che hanno subito evidentemente dei danni, quindi credito crediamo che sia effettivamente l'arma più potente per quello che riguarda la ricostruzione. Bene. Bene, grazie a Giuliana Braido di Emilbanca per essere stata con noi, e Pierpio Cerfogli della Banca Popolare della BPR. Grazie a tutti. Grazie a voi e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie. Io voglio ricordare che anche il gruppo 24 ore aderisce all'iniziativa di raccolta fondi straordinaria. Attivo il numero solidale 45500 45500 per la raccolta delle donazioni. Il ricavato verrà versato sul fondo della protezione civile per le ricostruzioni e il lavoro. Il valore della donazione di 2 euro per ogni sms e sempre di 2 euro per le chiamate da rete fissa 45500. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco con Salva Danaio. Bentornati in compagnia di questa puntata di Salva Danaio dedicata all'Emilia colpita dal terremoto, che vuole rialzarsi e sicuramente riuscirà a farlo anche attraverso la solidarietà, il sostegno e l'aiuto di tutti noi. Quindi, quali sono i problemi più urgenti, i veri bisogni, quali sono le iniziative serie messe in campo per organizzare gli aiuti e quindi come dare il nostro contributo? Questo è il tema di oggi. Stanno arrivando dei messaggi al 349-238-6666. Abbiamo anche una linea per le telefonate in diretta 800 24 00 24. Un ascoltatore ci scrive: mi chiedevo se avendo 3-4 giorni di ferie fosse possibile prestare opera di manovalanza, non avendo competenze tecniche, lavoro di fatica, tanto per capirci. Lo chiederemo tra non molto ad Angelo Morselli dell'Associazione Servizi Volontariato di Modena. Ma saluto adesso gli ospiti che abbiamo in linea. Sono Mauro Tonello, presidente della Coldiretti Emilia Romagna, ben trovato. Buongiorno a voi. Poi c'è Vincenzo Tassinari, presidente della Coop Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti. E avremo ospite anche Nicola Cesare Baldrighi, presidente del consorzio Tutela Grana Padano. Allora, Mauro Tonelli, quasi 100.000 ettari di terreno sono a rischio a causa proprio dei danni provocati dalle scosse, danni per decine di milioni di euro avete comunicato. Sì, purtroppo abbiamo avuto danni anche alle strutture dei consorzi di bonifica, che in questo momento non riescono a sopperire all'emergenza anche idrica, e quindi si aggiungono danni su danni. Per fortuna stamattina sembra, insomma, piova un po' dappertutto, sfortuna per le operazioni magari d'urgenza che servivano fatte sul territorio in edifici, un po' più meno sfortunato, diciamo, il comparto agricolo, che almeno un po' di pioggia arriva. È chiaro che però anche dal punto di vista della pioggia bisogna non scordare che questi impianti di bonifica servono sia per dare che per togliere acqua, quindi gli interventi urgenti che stanno già in queste ore cercando di mettere in piedi con delle pompe di emergenza servono anche in caso di forte piogge, quindi per prelevare, che potremmo passare da un'emergenza siccità a un'emergenza anche acqua, che aggiungerebbe danni a danni e preoccupazioni su preoccupazioni. Speriamo ovviamente questo non avvenga, i consorzi sono già tutti in allerta e ognuno sta cercando appunto di mettere in piedi sistemi di emergenza. Siete al lavoro e quindi appunto questi sistemi ci sono, non dovrebbero esserci problemi, perché in effetti leggevamo appunto del problema siccità e insieme di alluvione, perché ci sono questi impianti idrovori che hanno subito dei danni. questi impianti che hanno subito danni hanno pompe che oggi non riescono più ad andare, quindi stiamo anche attraverso qualche pompa che ci ha fornito la Protezione Civile, qualche pompa che stiamo smontando in fretta e furia da impianti meno a rischio per portarli in impianti che oggi non sono più operativi per poter sopperire, perché dovesse venire a piovere da serie in maniera pesante, oggi non avremmo nessun strumento per prelevare l'acqua da alcuni catini che sono appunto nella pianura padana. Questi interventi si stanno facendo anche sotto la pioggia, quindi i lavori stanno continuando. Bisogna sperare, ecco, che anche il tempo ci dia un minimo di sconto per arrivare in tempo a mettere in piedi tutta questo complicato sistema anche di prelevazione delle acque. È una corsa contro il tempo. Una corsa contro il tempo, sì. Problemi all'agricoltura, problemi agli allevamenti. Certo, i problemi più grandi e quelli che hanno fatto discutere molto di più sono appunto la caduta anche per noi di questi capannoni, in tanti casi stalle magari che potevano essere datati, ma in alcuni casi anche stabili nuovi, quindi stabili che non dovevano crollare così, ma evidentemente così non lo è stato. I disagi di questa gente che non può permettersi assolutamente di abbandonare la tutela degli animali che oggi sono anche fuori da queste stalle, ci si trova senza sale mungitura, quindi a dover mungere ancora come si faceva una volta a mano. Abbiamo sopperito anche qui con delle sale mungiture di quelle trasportabili in via d'emergenza, alcune ditte ci hanno fornito anche supporto per andare incontro alle esigenze di questa gente, e in tanti casi abbiamo notato la scomparsa degli addetti ai lavori. Quelle zone più che altro c'erano indiani che operano perché particolarmente adatti proprio a questo lavoro, amano gli animali per cui li accudiscono in un modo veramente eccezionale, che dopo l'evento del terremoto sono scomparsi e non riusciamo ancora a trovarli. Presumibilmente si sono ritirati da qualche parte, non so nella loro cultura come funzioni questo. Con questi fatto eventi, sta che sono spariti, quindi mancano proprio spariti. Le mani per la mungitura, le braccia per la mungitura. Sì. E purtroppo non è un lavoro che si improvvisa. No, è vero, è vero. E come se tutto ciò non bastasse, ci sono anche gli sciacalli che tentano di speculare su questi danni. Purtroppo poi, come sempre, quando ci sono eventi di questo genere, ci sono sciacalli che si inventano di tutto di più, girano di notte per andare a togliere anche quel po' che è rimasto a queste famiglie, portando via materiali, cercando di approfittarsene in molti casi anche nel far finta di dare una mano, ma nel dare una mano poi rischia di portare via. Tant'è che noi abbiamo fatto una scelta che, al di là dei primi aiuti che abbiamo dato in prima istanza ai centri di raccolta fornendo pasta, latte, tutto quello che insomma anche a noi ci avevano fornito, oggi stiamo seguendo il canale ufficiale della Protezione Civile, quindi quando abbiamo donazioni da fare ne stiamo facendo parecchie, la canalizziamo tutta la Protezione Civile perché pensiamo sia anche il canale sicuramente più corretto e non speculativo, che in questi casi purtroppo si rischia di avere delle intromissioni non sempre piacevoli. Ecco. Io saluto Nicola Cesare Baldrighi che ci ha raggiunto nel Consorzio Tutela Grana Padano, ben trovato. Sì, buongiorno a tutti. Si parlava appunto di sciacalli, di avvoltoi, ci sono anche persone senza scrupoli che so che hanno offerto dei prezzi risibili per il vostro formaggio pregiato, 2 euro al chilo. Beh, si sta assistendo un po' a ogni genere di comportamento, e proprio per cercare di fronteggiare queste situazioni, queste malaugurate situazioni, il Consorzio del Grana Padano ha proprio assunto la decisione di farsi carico di ritirare i magazzini che noi abbiamo velocemente approntato tutto il prodotto danneggiato, e ci faremo in qualche modo anche carico di andare un po' incontro alle esigenze economiche di chi ha subito questo forte danno. Ecco, ricordiamo questo. Prego. Questo proprio per evitare che sorgano intorno al prodotto danneggiato dalle speculazioni. Quindi tutto il prodotto che resta disponibile per l'attività commerciale è il prodotto assolutamente integro e assolutamente conforme a quelle che sono le caratteristiche tipiche del grana padano. Allora, le persone come possono fare, noi cittadini, come possiamo fare per aiutare il vostro settore, il grana padano, il parmigiano reggiano, questi prodotti di eccellenza? I nostri due prodotti oggi si trovano esattamente nella stessa condizione, al di là del fatto che il parmigiano reggiano ha avuto dei danni evidentemente più gravi dei nostri. La cosa più semplice e più immediata che i cittadini possono fare, e per noi la più utile, è che si rechino dove abitualmente sono abituati ad andare, nei supermercati, nei negozi, nei punti vendita di riferimento, ed acquistare del grana padano o del parmigiano reggiano alle condizioni a cui l'hanno sempre acquistato, assicurandosi di comprare il prodotto autentico, evitando di rivolgersi a tutta una serie di prodotti di imitazione che stanno cercando di insinuarsi, incunearsi nei nostri mercati, la cui provenienza non è certa, non è certa la provenienza, non sono certe neanche le pratiche di produzione. Quindi l'aiuto maggiore che noi possiamo ricevere dai cittadini è proprio la loro fedeltà di consumatori nell'acquistare il nostro prodotto come sempre lo hanno comprato, marchiato e garantito dai consorzi. E chissà, poi in questo periodo possiamo anche preferirlo, no? Scegliere di grattugiare un po' di più parmigiano e grana padano. Va in questo senso l'iniziativa della Coop Italia. Di nuovo buongiorno Vincenzo Tassinari. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cosa succede da voi? Ma succede che noi abbiamo preso in considerazione questa situazione che il presidente della grana padano prima diceva. Quindi il pericolo più grosso oggi è quello appunto delle speculazioni, il pericolo è quello di farsi prendere dal panico, invece ci vogliono garanzie. Quindi a questo punto le garanzie le danno giustamente i consorzi di produzione, come diceva prima il collega, ma la danno anche le grandi catene distributive. Questo è un impegno molto importante perché ai consumatori il veicolo fondamentale, noi ne abbiamo 12 milioni, arriva la grande distribuzione moderna italiana, e quindi se la grande distribuzione moderna come Coop, quindi Coop Italia, fa un accordo con il consorzio parmigiano reggiano, questo va in questo indirizzo. Oggi pomeriggio ci incontriamo con gli amici del Grana Padano per impostare un regolamento di questo tipo, quindi noi garantiamo ovviamente il giusto prezzo di collocamento ai produttori, diamo un prezzo di vendita per i consumatori assolutamente conveniente, parliamo di uno sconto dell'ordine del 15-20%, però garantendo appunto ai produttori e ai conferitori il loro giusto prezzo. Credo che questo sia un obiettivo molto importante, garantire quindi lo sbocco delle produzioni. Credo che questo sia il messaggio che deve passare, quindi non farsi prendere dalla impellenza di vendere. C'è sicuramente lo sbocco, è uno sbocco prima di tutto commerciale dovuto all'ottima produzione che rappresentiamo, che ha sbocchi nazionali e internazionali assolutamente importanti. Di più, se diamo anche questo segnale di solidarietà verso i consumatori, credo che non ci sia nessun problema di collocamento. Quindi questa è la garanzia che noi vogliamo dare, e credo che gli accordi che stiamo facendo, fra l'altro col parmigiano reggiano, contiamo di arrivare a 500.000 chili venduti così, dove un euro andrà appunto a sostegno dei coltivatori, quindi ci sarà un importo anche importante in termini di solidarietà. Avete fatto anche delle previsioni in cifre, ho letto che contate di poter devolvere nell'arco di 2 settimane 500.000 euro. Questo è legato appunto a uno sbocco commerciale che noi pensiamo possa essere di 500.000 chili, quindi un euro per chilo. Però siamo anche convinti che laddove necessitasse si può fare di più, si può fare anche iniziative che durano più tempo, di natura straordinaria. Guardi, io sono fra l'altro contattato da amici distributori di catene distributive americane che mi chiedono appunto di dare una possibilità anche per gli americani in quelle popolazioni di dare un sostegno alla nostra Emilia. Ecco, credo che da questo punto di vista veramente si sta muovendo un mercato di sostegno soprattutto e di solidarietà per i quali i nostri coltivatori dell'ottimo prodotto parmigiano padano possono essere sicuri. Quindi dall'11 giugno c'è il parmigiano della solidarietà, ma probabilmente, Nicola Cesare Baldrighi, questa iniziativa sarà estesa anche al grana padano. Sì, certamente, come ben ricordava il presidente Tassinari, che saluto e che ringrazio per la sua disponibilità, ci sarà in questo senso un incontro proprio oggi pomeriggio. E la disponibilità della grande distribuzione in questo senso per noi è oltremodo preziosa, perché torno a ripetere, la cosa più semplice e più utile che i cittadini possono fare è proprio recarsi nei supermercati a comprare un pezzo di grana padano, un pezzo di parmigiano reggiano. Dopo noi troveremo le formule per far sì che il ricavato possa andare anche ad iniziative che vanno al di là del danno dei nostri due prodotti, quindi iniziative di solidarietà anche un po' più ampi. Però questo è il gesto che noi chiediamo agli italiani di fare, un gesto semplice, abituale, e di porre forte attenzione sul marchio. Benissimo, benissimo. Grazie a Nicola Cesare Baldrighi del Consorzio Tutela Grana Padano, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. E a Vincenzo Tassinari di Coop Italia. Grazie, grazie a voi tutti. Un minuto a Mauro Tonello di Coldiretti, forse anche lui vuole fare qualche appello. No, è chiaro che la preoccupazione è legittima, quella che sentivo anche dal responsabile del Grana Padano, tant'è che anche noi l'iniziativa che abbiamo fatto di messa in vendita di questo prodotto è nel circuito delle botteghe di campagna e Farmers Market, dove c'è il controllo ovviamente fino a tutta la filiera, quindi fino alla produzione. È bene che se tu questo sia controllato, quindi canali di gran distribuzione, i canali delle nostre botteghe, dei Farmers Market, sono quelli che garantiscono, diciamo, che il contributo in effetti arriva poi al produttore finale. Direi che qui siamo in ampia correttezza, diciamo, e quindi il consumatore può dare una risposta molto chiara, trasparente, voglio dire, a quei produttori. Grazie, grazie anche a Mauro Tonelli, a presto, buon lavoro, in bocca al lupo. Di nuovo insieme a Salva Danaio, segnatevi questo indirizzo terremoto.volontariamo.com, attraverso il quale potete rendervi conto in tempo reale di cosa c'è bisogno sul territorio colpito dal sisma e come fare a dare il proprio contributo. Io saluto Angelo Morselli dell'Associazione Servizi Volontariato di Modena. Buongiorno. Forse è più facile ricordarsi www.volontariamo.com, attraverso il quale poi è facilissimo, no? Sì. Passare. Sì, abbiamo fatto una cosa molto semplice con tre bottoni dove si dice... Mi scusi, vorrei chiederle di alzare un po' la voce, non la sentiamo molto bene. Allora, abbiamo fatto una cosa molto semplice, un sito con solo tre bottoni. Uno che dice vuoi donare qui, vuoi dei beni che servono sono qui, se vuoi fare volontario, basta. E rispondi, ognuno va al suo campo, che va tutto in un database che noi usiamo. Questa è la cosa più semplice del mondo. Il tutto è aggiornato in tempo reale? Ah, funziona ogni secondo, ci sono una quindicina di volontari che rispondono. Noi abbiamo ricevuto 5.000 contatti in due giorni e oggi il giorno continua così e rispondiamo tutti quanti li mettiamo in un database, poi alla fine viene fuori una fotografia che dice appunto di cosa sono disposti a fare, quali candidature ci sono del volontariato, ad esempio i dati aggiornati rispetto a ieri, che ieri i volontari disponibili erano 2.000, oggi sono già 3.000 e abbiamo divisi per ogni attività, per competenze, per disponibilità di giorno, di sera, del sabato, la domenica, quello che uno vuole fare. Di chi avete bisogno maggiormente? In breve, perché abbiamo molti ascoltatori che vogliono fare delle domande. Allora, molto, molto facilmente si dice, allora noi operiamo in due modi, uno con la protezione civile, la quale ci chiede di cosa c'è bisogno. Quindi voi vi coordinate con la protezione civile? Esattamente, uno con la protezione civile e l'altro direttamente con le associazioni di volontariato che sono presenti localmente e con i sindaci dei comuni interessati. Quindi tutti confluiscono su questo sito? No, che confluiscono, ci raccordiamo. Certo. Ognuno è il proprio, però quando mi chiedono di avere, come un attimo fa, avere 8 persone in grado di dare un aiuto sul settore sanitario, sociosanitario, noi abbiamo cliccato sul nostro sito e ci hanno risposto chi sono, e abbiamo già inviato queste persone. Questo è il modo di operare. Allora c'era un ascoltatore che ci chiedeva come fare a utilizzare, ecco lo leggo proprio il messaggio: mi chiedevo se avendo 3-4 giorni di ferie fosse possibile prestare opera di manovalanza, non avendo competenze tecniche, lavoro di fatica, tanto per capirci. Ecco, avete bisogno anche di queste persone che possono prendersi un periodo limitato di tempo e possono venire a sudare? Anche questo è previsto, infatti nella colonna di destra, la terza, dice proprio quando dice volontariato, dentro c'è i giorni, le ore disponibili, il periodo. Tenga presente che noi già adesso abbiamo risposte. Urli, lei urli perché la sentiamo non benissimo. Non so perché, però il tempo non è che finisce in 10 giorni, non c'è più bisogno di volontari, anzi. E il nostro timore è che quando arriverà il mese di luglio e agosto ci sarà bisogno ancora più volontari, e sono diversi infatti quelli che ci telefonano dicendo: posso dedicare una settimana di ferie al volontariato? E diciamo sì, li mettiamo dentro il database e poi dopo vediamo. Va bene, sentiamo Roberto da Trento all'800 24 00 24. Roberto, ben trovato. Sì, buongiorno. Ecco, io la chiamo per una cosa molto semplice. Volevo solamente... Pronto, mi sente? Malissimo. Non siamo fortunati con i collegamenti. No, non siamo fortunati. No, niente, io volevo solo offrire la possibilità a qualche persona che ne ha bisogno, sì, di poter venire, ovviamente gratuitamente, in un appartamento che posso mettere a disposizione per 2, 3, 4 mesi, fino a che le persone si possono sistemare, o per questo periodo possono arrivare a trovare qualcosa più vicino a casa, eccetera. Ecco, questo volevo fare. Quindi lei è un appartamento a Trento, l'appartamento? L'appartamento è vicino a Trento, eventualmente posso dare tutte le informazioni dettagliate, si può trovare anche su Google Earth, si può vedere tutto, mi possono chiamare e li posso spiegare nel dettaglio. È un appartamento che può ospitare un paio di persone o una coppia con un bambino o qualcosa del genere, non è grandissimo, però comunque è comodo, a piano terra, c'è il giardino. Certo. Beh, poi ecco, vicino a Trento sono anche posti stupendi, se vogliamo lasciarci andare anche questi Trento, commenti. È una zona molto tranquilla e mi piacerebbe, perché io vorrei fare tanto, aiutare, ma certo, purtroppo non posso. L'unica cosa che posso offrire è mettere a disposizione una casa e insomma non è poco. Sentiamo anche un altro ascoltatore e poi do la parola al nostro ospite. Rosario da Milano. Sì, buongiorno, volevo chiedere, io volevo donare dei depuratori d'acqua, lavoro con dei depuratori per osmosi inversa, però io volevo avere la certezza, siccome hanno un valore, che vengono usati bene, che servono, capito? Cioè che non venivano lasciati lì o magari abbandonati o dati alla famiglia così, capito? Certamente. Che venivano usate da più famiglie, capito? Ovviamente. Angelo Morselli, depuratori d'acqua, il nostro ascoltatore non vuole che non vengano utilizzati, vuole che si possa essere certi insomma del buon fine, ma d'altra parte in questi casi ogni volta è così, si vuole aiutare, si vuole contribuire, ma poi si teme che i nostri contributi insomma non finiscano nelle giuste mani. Cosa possiamo rispondere ai nostri ascoltatori? No, il dato è questo qui. Noi questi beni di questa importanza li installiamo, li facciamo installare direttamente nei campi del Tendopoli, e lo facciamo insieme ai sindaci, sono loro che decidono in quale campo va installato. Ecco, chi vi dona queste cose poi può venire a vedere come sono state installate, come sono state utilizzate, no? Assolutamente, sì, adesso ci sono scorsi i primi momenti in cui diciamo emergenze, bisogna far funzionare la struttura, dopodiché è un posto normalissimo dove ci sarà anche le varie attività che fanno la situazione, tutto diventa come la città dovrebbe diventare una comunità, anche, certo, anche se provvisoria, perché noi speriamo di finire presto, però fino a quando sono lì la gente deve poter vivere come viveva prima nella città, nel paese che frequentava prima, insomma. E per quanto riguarda gli appartamenti? Possono servire offerte come quella del nostro ascoltatore? Alla grande, perché ci sono soggetti come anziani o persone con handicap che hanno dei problemi, che dentro le tendopoli, per quanto non hanno più difficoltà di altri, e soprattutto molti anziani. Abbiamo già cominciato, abbiamo ricevuto disponibilità in molte case della montagna, e da 3 giorni a questa parte abbiamo spostato in montagna sicuramente non meno di 200 anziani. tutti quanti con un collegamento, c'è qualcuno che li aspetta del volontariato là, in maniera che non si sentano bene, anche così... loro abbandonati. E allora si può fare riferimento sempre a www.volontariamo.com. Sì, esatto. Sentiamo un'altra telefonata, siamo in chiusura. Roberto dalla provincia di Cremona, velocemente. Buongiorno. Voglio segnalare tanto la cosa che ha fatto il nostro parroco della cattedrale. Praticamente ha comprato da un produttore della zona 300 kg di formaggio, grana ovviamente. Sì. E il nome di questo produttore qui è stato segnalato dal vescovo del posto, adesso non so se è di città comunque perché non me lo ricordo. E praticamente il nostro parroco da giovedì venderà 300 kg che arrivano direttamente dalla zona lì. E quindi il parroco li venderà poi ai cittadini, ai suoi parrocchiani? Esatto, con la buona cosa che magari se vendono più di 300 kg ovviamente le comprerà altrettanti. Certo, un'iniziativa da imitare, a cui ispirarsi. Grazie a Roberto, grazie a tutti gli ascoltatori e a Angelo Morselli dell'Associazione Servizi Volontariato di Modena, volontariamo.com, buon lavoro. Grazie, buongiorno. E prima di salutarci, il nostro appuntamento con un quotidiano, con le pillole curate in collaborazione con l'INPS, che ci aiutano a conoscere le novità e a capire i meccanismi dell'ultima riforma delle pensioni. Oggi parliamo dei casi in cui non scattano le penalizzazioni per chi vuole andare in pensione prima dei 62 anni di età. Sentiamo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con l'INPS. La riforma conferma il meccanismo che lega l'aumento dell'età pensionabile alla cosiddetta speranza di vita. Che cos'è e come funziona? La riforma conferma e sviluppa il meccanismo introdotto nel 2009 che lega gli incrementi dell'età pensionabile alla cosiddetta speranza di vita, che altro non è se non la previsione stimata dall'Istat di quanto aumenta nel corso del tempo l'aspettativa di vita delle persone. In pratica, dal momento che si vive progressivamente più a lungo, si deve andare in pensione più tardi. Ogni 3 anni l'Istat indica di quanti anni è cresciuta questa aspettativa. Sulla base di questo, si determina la nuova soglia di età pensionabile minima. È tutto, grazie a Marco Lombardi in redazione, Matteo Comis in regia, a voi per l'ascolto. Salva Danaio torna domani. Un saluto, una buona giornata da Roberta Pellegatta.